sono svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasore. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. Questo è il fiore del